Grazie Mario, buonasera. Grazie Roberto. Roberto sapeva che oggi predicavo e ha detto ad Antonio, se c'è Antonio, ad Antonio l'altro, se c'è Antonio lui, che non è l'altro, stasera abbiamo la lavagna e quindi si era già preparato. Fantastico, facciamo un applauso a Roberto. Facciamo un applauso a tutto il team Lode. Sapete, non è semplice nel percorso della vita che ognuno di noi fa, poi decidere di essere qui per dare qualcosa ad ognuno di noi. E il gruppo Lode ogni domenica è qui per portarci alla presenza di Dio. E durante il momento di adorazione, Pino è venuto avanti e mi ha ricordato, mentre io stavo pregando, che Gesù si prende cura di me. E io voglio ricordarti questa sera, come Mario ha già detto, che Gesù si prende cura di te. E quello che sono le parole che lui ha messo nel mio cuore questa sera, per te, sono perché lui si prende cura di te. E non è un caso che tu sei qui. Lui sta scrivendo un percorso attraverso la storia della tua vita. E lui si prende cura di te. Il titolo del messaggio di questa sera è Gesù, mio re. Gesù è il nostro re. Gesù è il mio re. Gesù è il tuo re. E sapete, nella sua sovranità di re, lui porta alla luce quel valore e quella dignità che risiede dentro di noi, ma che tante volte noi non guardiamo, o noi non pensiamo di avere, o noi non consideriamo, perché ci siamo dimenticati che siamo figli e figlie di un re. Questo è quello che lui fa quando si rivela a noi. Nella sua sovranità di re, lui è abile a sbloccare la storia della nostra vita e a permetterci di entrare in una storia molto più grande di quella che la nostra vita può avere nel percorso che abbiamo. Una storia che parla della sua missione, la missione di Dio, cioè il suo piano per raggiungere il nostro mondo, che è rotto, e lo vediamo, è rotto dal peccato, dalla disubbidienza, dalla mancanza di perdono, dall'odio, è rotto dall'egoismo, un piano di salvezza che Gesù con il Padre e il Figlio avevano in mente da eternità passate per eternità future e che vede noi entrare a far parte di tutto questo. Vi ricordate che l'abbiamo visto? E io ho portato la mia lavagna che ci aiuta un po' a ricordare questo. Così con il disegno magari ci ricordiamo quello di cui stiamo parlando. Cristo Gesù è venuto e nella sua morte e nella sua resurrezione lui ha strappato e ha vinto la morte ed è risorto e ha conquistato la vita eterna per me e per te e ha permesso alla storia della nostra vita di entrare in una storia molto più grande per affidare a noi quella che era la sua missione di portare quel piano di salvezza a tutte le persone che ancora non lo conoscono. Ci siete? Ve lo ricordate? E noi abbiamo visto insieme, attraverso la lettura degli Atti degli Apostoli, come la storia della vita di Pietro, nel suo percorso, ad un certo punto ha incontrato la storia della vita di Cornelio. Si sono incrociati e in quel momento la storia della vita di Cornelio è cambiata, perché lo Spirito Santo si è rivelato a lui come Cristo Gesù, re e risorto. E nella rivelazione di re in Cristo Gesù che Cornelio ha avuto, la porta per la salvezza a tutte le persone che non erano ebree si è aperta. Ed è arrivata fino a noi oggi, vi ricordate? Abbiamo visto pure lo status che Cornelio aveva messo su Facebook, che le persone dicevano, ma vabbè, non perdiamoci. E poi abbiamo visto come la storia della vita di Anania, ad un certo punto del suo percorso, ha incrociato la storia della vita di Saulo. E attraverso la rivelazione che lo Spirito Santo ha dato a Saulo di Gesù re, Saulo ha capito che lui era Paolo. Ha capito che la storia della sua vita poteva cambiare, ha capito che la storia della sua vita poteva essere trasformata e ha iniziato i suoi viaggi missionari di cui noi leggiamo negli Atti degli Apostoli e di cui noi leggiamo tutte le lettere che sono contenute, la maggior parte delle lettere che sono contenute nel Nuovo Testamento. La mia preghiera per te questa sera è che al di là del tuo percorso di vita, tu possa ricercare quella rivelazione di Gesù mio Re. Perché quella rivelazione di Gesù mio Re, che è il tuo Re, permette alla storia della tua vita di entrare a far parte di una storia molto più grande, che continuerà quando io e te non ci saremo più, che travolgerà tante altre persone e che ci porterà a vedere la gloria di Dio. Gesù Re ti abilita a comprendere qual è il tuo posto in questa storia più grande. Gesù mio Re permette alla storia della tua vita di incastrarsi come un piccolo tassello di una storia molto più grande. Gesù Re abilita la tua storia, al di là di chi tu sei, di cosa hai studiato, del tuo lavoro, della tua famiglia, di quello che hai, di quello che non hai. Gesù Re abilita te e abilita la tua storia ad incastrarsi perfettamente nel piano di salvezza cosmico, eterno, grandioso che Dio ha per raggiungere l'umanità. Non è fantastico questo? Le rotelle del mio cervello si incriccano quando penso a questo. Non so se le tue rotelle continuano a girare bene. Quindi questa sera, mentre ci immergiamo ancora una volta nella lettura degli Atti degli Apostoli e andiamo a vedere il secondo viaggio missionario che l'Apostolo Paolo sta facendo, la mia domanda a te è: qual è il tuo viaggio missionario? Stasera leggeremo quello dell'Apostolo Paolo, il suo secondo. E il tuo qual è? Tu lo sai? Lo stai vivendo? Lo vuoi vivere? Oppure ti lasci vivere, così come viene. Vediamo oggi come va. Che cosa stai scrivendo con la storia della tua vita? Questa è la domanda che io mi pongo. Questa è la domanda che Dio mi pone. Antonio, che cosa stai scrivendo con la storia della tua vita? Quale percorso? Quale percorso stai tracciando attraverso la tua storia? Sapete, non lo so se a voi capita, però a volte io, parlo per me, ho come la sensazione che giro attorno e rimango sempre sullo stesso punto. Succede anche a voi? No? Voi andate sempre avanti? O a volte vi fermate un po' e dite, ma dove, hai perso il navigatore, sai quando devi ricalcolare il percorso? Che quando ti serve non lo sa mai calcolare e tu non sai dove devi andare. Possiamo essere sinceri, possiamo essere un po' senza filtro, vi piace? Tanto siamo tra di noi. Ve lo posso dire così come lo sento nel cuore che mi viene? Basta. Basta vivere un Gesù da 118. Basta vivere un Gesù da pronto soccorso. Che deve rivelarsi nella nostra vita per rianimarci nel punto dove siamo, perché ritorniamo sempre al punto di partenza e deve defibrillare e deve farci riprendere respiro, perché poi ritorneremo a soffocare, non sapremo cosa fare, non sapremo dove andare. Basta. Basta rimpianti. Basta piangerci addosso sul latte versato. Basta vivere come un cane che si morde la coda. Le ho dette tutte. Ok, così ce l'abbiamo per tutti. La storia della tua vita vale molto di più. Caspiterina, Gesù è morto, Gesù è risorto, Gesù ha vinto. E vuoi vedere che io devo perdere tempo? E vuoi vedere che io mi devo perdere in un bicchiere d'acqua? La storia della tua vita vale molto di più del circolo vizioso dove noi ci possiamo ritrovare a vivere. Io prego questa rivelazione per noi questa sera, perché in Gesù Cristo tu hai valore e dignità. In Gesù Cristo tu hai valore e dignità che ti abilitano a vivere una vita che è piena ed è abbondante. Gesù è il nostro Re. Gesù è il tuo Re. Lui è Re in un regno dove regna lo Spirito Santo. Gesù è Re nella tua vita, in un regno dove regna lo Spirito Santo. E questo regno, indovinate un po', vive dentro di te e dentro di me. Un regno dove lo Spirito Santo dirige, è detta la sua legge. Un regno dove lo Spirito Santo sovrasta e ricopre la storia della nostra vita. Un regno dove lo Spirito Santo governa e guida i tuoi passi, i tuoi desideri, le tue scelte, le tue parole, il tuo atteggiamento. Questa è la dimensione della storia della vita che Dio ha preparato per me e per te. Non accontentarti di una fotocopia in bianco e nero. Non accontentarti di una storia annacquata. Scegli, scegliamo di vivere una vita piena e abbondante, dimensionata nella dimensione di uno Spirito Santo che regna nelle nostre vite. Sì? Ci piace? Lo volete? Quindi riprendiamo la nostra lettura. Avevamo lasciato Paolo e Sila e li ritroviamo all'inizio del loro secondo viaggio missionario. Sono partiti da Antiochia, avevano, pensate, programmato una bellissima campagna evangelistica che doveva coinvolgere e toccare tutte le città dell'Asia. Però leggiamo che cosa accade dal verso 6 del capitolo 16. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Curiosa questa cosa, vero? E continua. E giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Di nuovo. E oltrepassata la Misia discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. E appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare il loro Vangelo. Prego la regia di proiettare la cartina di quello che è il percorso del secondo viaggio missionario, così lo capiamo un po' insieme. Abbiamo detto che erano in Antiochia, sopra lì, e avevano intenzione di avere il loro percorso evangelistico nella regione dell'Asia, allora conosciuta come Asia, che è questa parte meridionale dove vedete la città anche di Efeso. Solo che ad un certo punto abbiamo letto che lo Spirito Santo ha deciso di trasformare il loro percorso, impedendo loro di andare dove loro avevano pensato di andare, per portarli da un'altra parte. E quindi si sono ritrovati poi a Filippi, perché da Troas o Troade, a seconda di come insomma, della lingua che usiamo per chiamare questa città, sono arrivati a Filippi. Il punto numero uno del messaggio di questa sera è: lo Spirito Santo, quando regna, lo Spirito Santo trasforma il tuo percorso. Quando regna lo Spirito Santo, lui trasforma il tuo percorso. Ora, non so se voi vi ricordate, vi faccio un refresh, ma nella prosecuzione del capitolo 16, se lo andiamo a leggere, loro poi a Filippi ne vivono di cotte e di crude. Vengono picchiati, denudati, sbattuti in prigione, incatenati, incarcerati. Cioè, voglio dire, lo Spirito Santo aveva cambiato questo percorso per portarli da un'altra parte, ma cioè, forse era meglio se andavano dove loro volevano andare piuttosto che dove lo Spirito Santo li stava portando. Non ci sentiamo a volte noi così, no? Cioè, beh, Spirito Santo, un ottimo programma evangelistico. Arrivare a Filippi, essere assaliti da una folla in piazza davanti a tutti, essere spogliati nudi davanti a tutti, perché questo è quello che abbiamo letto che è successo, che c'è scritto nel capitolo 16, essere picchiati con delle mazze di legno, perché furono presi a vergate, poi nudi, dopo essere stati picchiati, sbattuti in carcere. Questa campagna evangelistica del secondo viaggio missionario è un successone proprio, eh? Cioè, se fossi stato io Sila, avrei detto a Paolo: Paolo, la prossima volta che ti sogni un macedone, vai dal fruttivendolo, comprati la frutta, fatti una macedonia e statta a cast. Perché guadagniamo salute, io e te, piuttosto che arrivare fino qua a Filippi a farci ammazzare da questi quattro filippesi che stanno qui. Eppure, questo è vero, noi stiamo sorridendo, ma questa è vita vera. Eppure, sapete, il loro level up, il loro andare e passare di gloria in gloria, doveva attraversare tutto quello che loro stavano vivendo. Perché qui e ora, con loro, a Filippi, il carceriere avrebbe riconosciuto che Gesù era il suo re. Vi ricordate? Non solo il carceriere, ma tutta la sua famiglia si sarebbe salvata. Qui e ora, con loro, a Filippi, nonostante le circostanze e le situazioni dove loro si erano ritrovati, Lidia, commerciante di porpora, avrebbe riconosciuto che Gesù era il suo re. E non solo lei si sarebbe salvata, ma attraverso di lei la sua famiglia si sarebbe salvata. Qui e ora, con loro, a Filippi, quella serva, posseduta da uno spirito immondo, sarebbe stata liberata e avrebbe ricevuto libertà, valore e dignità per vivere quella vita che Gesù aveva programmato per lei. Questa è la vera campagna missionaria che lo Spirito Santo aveva in mente per Paolo e Silla, trasformando il percorso che loro avevano programmato. In quale misura Gesù re nella tua vita permette allo Spirito Santo di trasformare il tuo percorso? Ve lo ripeto. In quale misura Gesù re nella tua vita permette allo Spirito Santo di trasformare e determinare il tuo percorso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. La storia che tu stai scrivendo è veramente quello che Dio ha preparato attraverso di te? Lo Spirito Santo sta trasformando il percorso della vita in cui tu ti trovi? Come sta andando questo viaggio missionario nel quale ci siamo imbarcati? Dove ci sta portando? Se lo Spirito Santo dirige la tua vita, i tuoi passi, allora tu sei la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Se lo Spirito Santo dirige i tuoi passi, non sei tu che decidi, è Lui. E Lui ti fa essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto, al di là di dove ti trovi, al di là di come ti trovi e al di là di come ti senti. Sapete, era l'anno 2006 e a luglio mi sono laureato e la mia carriera di architetto era lì, pronta, davanti a me. Aprirmi uno studio, dedicarmi alla mia professione, dedicarmi a quello che avevo studiato per tanti anni, eppure lo Spirito Santo decide di trasformare il mio percorso e mi dice: Antonio, fai bagagli e bagaglini, lascia tutto e vattene dall'altra parte del mondo, riparti da zero perché io voglio che tu riprendi a studiare in inglese che non sai parlare, contro tutto e contro tutti, contro quello che gli altri pensano che tu debba fare ma che tu sai che non stai facendo, però stai facendo quello che io ti sto dicendo ma che nessuno sta capendo. Eppure arrivare dall'altra parte del mondo sapendo di essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Ti è mai capitato? Quando niente ha senso intorno a te, eppure tu sai di essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto, perché Dio e Gesù Re sta trasformando il tuo percorso. E poi è arrivato il settembre 2012 e io avevo un programma fantastico. Che ce ne dobbiamo fare della campagna evangelistica che aveva pensato Paolo e Sila di Asia? Che ce ne dobbiamo fare? Rimanere qualche altro anno in Australia, continuare a lavorare come architetto in un lavoro che Dio aveva procurato a me miracolosamente, continuare a servire in una chiesa influente a livello globale e continuare ad avere contatto con persone che decidevano e che guidavano, mettere a disposizione il mio talento e quello che io sapevo fare, non solo in termini di servizio, ma anche in termini di professionalità, per realizzare nuovi auditorium e accogliere nuove persone, fare tutto questo per poi ritornare qui, da noi, e portare tutto questo a noi, e cambiare la nostra storia, e vivere la nostra chiesa. Woo! E dal giorno alla notte, lo Spirito Santo mi catapulta a Bari e decide di trasformare ancora una volta la storia che io stavo scrivendo con la mia vita. E lì che fai? Ricominci di nuovo da capo. Ripartiamo da zero. Ma sai cosa? Se era vero che io ero lì e che lo Spirito Santo mi aveva portato lì e che lo Spirito Santo stava dirigendo i miei passi, allora io dovevo fidarmi. Se lo Spirito Santo dirige i tuoi passi, allora ti devi fidare. Perché se no, di che cosa stiamo parlando? Se lo Spirito Santo li ha portati a Filippi e sono stati picchiati, si devono fidare. Perché se no, che lo stanno facendo a fare? E quando tu ti fidi e ti affidi, Al di là del posto dove ti trovi, al di là della circostanza in cui sei, al di là del programma che è stato cancellato come con un colpo di spugna, tu sei la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Questo è quello che fa lo Spirito Santo in te. Settembre 2012 ero a Bari, ero la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto, al di là di quello che avevo programmato, al di là di quello che avevo pensato. E nell'affidarmi a Dio, Lui mi ha fatto incontrare mia moglie, mi ha fatto costruire una famiglia, ha permesso che io potessi servire la Chiesa a tempo pieno con la maggior parte di ognuno di noi, mi ha portato a pensare che io potessi vivere la mia vita servendo la Chiesa e dedicarmi solo a questo. Isaia 64, il profeta Isaia nel suo libro, al capitolo 64, verso 8, dice questo: tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle Tue mani. E gennaio 2018 lo Spirito Santo trasforma di nuovo il percorso della mia vita. Chi è il vasaio? Domanda. È Dio. Chi è l'argilla? Io e te. E sapete cosa mi ha detto lo Spirito Santo? Come opera delle mie mani, perché tu, Antonio, sei opera delle mie mani, qui e ora, con te, io voglio riprendere la tua carriera. Da dove l'hai lasciata nel 2006? Insieme. Lo faremo insieme questa volta. Tu, Antonio, ce la puoi fare. Tu puoi ogni cosa, perché io sono dentro di te e ti fortifico. E quindi andiamo. Questo è il percorso che io ho preparato per te. Passiamo al prossimo livello, al livello successivo dove io ti porterò di gloria in gloria. E sapete cosa è successo? Che in meno di 6 mesi, quelle porte che dovevano rimanere chiuse sono rimaste chiuse. E quelle porte che si dovevano aprire si sono aperte. E lo Spirito Santo ha permesso di riposizionarmi su uno start per rilanciare tutto quello che io avevo lasciato come se non l'avessi mai lasciato e farmi essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto. Quando Gesù è il tuo re, lo Spirito Santo regna dentro di te. E se lo Spirito Santo dirige e detta legge, allora Gesù trasforma il tuo percorso. Non è uno stagno, non è la solita vita, non è sempre solo quello che facevi ieri. È facile? No. È difficile? Sì. Ce la posso fare? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Sapete, è curioso che l'Apostolo Paolo scrive questa lettera ai Filippesi. Infatti, proprio Filippesi 4,13, lui dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quasi a ricordare loro che nonostante quello che è successo quando io vi sono venuto a trovare, che ci hanno pestati a sangue, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Punto numero 2. Siete con me? Ci siete? Lo vogliamo sentire? Vogliamo andare avanti? Vogliamo scoprire questo secondo viaggio missionario ancora? Ok. Quando lo Spirito Santo regna, cambia il destino delle persone intorno a te. Lo Spirito Santo regna e non solo trasforma il tuo percorso, ma Lui cambia il destino delle persone intorno a te. E lo continuiamo a leggere in Atti 17. Dal verso 1 vediamo che dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sile, così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città. E assalita la casa di Giasone, cercavano di trascinare Paolo e Sila davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: Costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui, bellissima questa frase, gridando e dicendo che c'è un altro re, Gesù. C'è un altro re, Gesù. E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose. Questi, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Ma i fratelli, subito di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea. Ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche a Berea, si recarono là, agitando e mettendo sotto sopra la folla. I fratelli allora fecero subito partire Paolo, conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora là. Gesù, mio re, trasforma il percorso della mia vita per incrociare la storia della vita delle persone intorno a me e cambiare il loro destino. E cambiare il loro destino. Tu su che strada sei? Sei sulla strada per la tua Tessalonica? O ti sei perso? O ci siamo persi? Cosa stai scrivendo con la tua storia? Stai portando la tua famiglia ad incontrare un Gesù, fatemi dire così, da 118, che lasci fuori alla porta? O stai portando la tua famiglia a incontrare un Gesù che è il tuo re? O stai portando la tua famiglia a incontrare un Gesù che è mio re? Se lo Spirito Santo regna, allora il tuo destino cambia. Il tuo destino cambia. E tu, se sei nato quadrato, non muori quadrato. Inizi a smussare gli angoli. E quasi quasi diventi pure tondo, se permette lo Spirito Santo di operare e trasformarti come Lui vuole trasformarti. Se lo Spirito Santo regna, allora il tuo destino cambia e la sua presenza e la presenza dello Spirito Santo è così ingombrante sopra di te che trasforma il percorso della vita delle persone intorno a te. E non lo devi fare tu, e non li devi convincere tu, e non ti devi impegnare tu, perché è lo Spirito Santo che opera e che agisce attraverso di te, come ha operato e agito attraverso la vita di Paolo e Silla nelle città dove loro si sono ritrovate. Sapete, Gesù mio re ha trasformato la storia e il percorso della vita di Sofia. L'abbiamo visto, non so se vi ricordate. E in un qualche modo l'ha portata a tricarico e ha permesso alla storia della vita di Sofia di incrociare la storia della vita di Giuseppe e trasformare a sua volta la storia della vita di Giuseppe. E insieme hanno cambiato il loro destino. E insieme lo Spirito Santo ha cambiato il destino di tutte quelle persone la cui storia ha incrociato la storia della loro vita e le ha portate a riconoscere che Gesù è il loro Salvatore. E ha creato la nostra Chiesa di cui noi oggi siamo parte. Questo è quello che fa l'opera trasformatrice dello Spirito Santo. E qui potrei aggiungere tutti i nostri nomi, di tutti i nostri incroci, di come ci siamo ritrovati, l'uno a incrociarci nella storia della vita dell'altro, per riconoscere che Gesù è il nostro Re, per portarci a vivere la sua rivelazione di un Cristo risorto. Non è grandioso, non è meraviglioso. E la cosa che mi piace ancora di più è che gli abitanti di Tessalonica avevano riconosciuto, senza conoscere, è strano questo, cioè loro non avevano mai visto i discepoli. Era la prima volta che Paolo e i discepoli entravano in una città che si chiamava Tessalonica. Non si erano mai spinti oltre la città di Filippi. Nessuno li conosceva, nessuno li aveva mai visti, eppure gli abitanti di Tessalonica hanno riconosciuto che i discepoli erano coloro che avevano messo sotto sopra il mondo e che erano arrivati anche lì. cosa riconoscono i tuoi colleghi di te? Cosa riconoscono i tuoi amici di te? Cosa riconoscono i tuoi figli di te? I tuoi genitori di te? I tuoi cugini, i tuoi zii? Non lo so, mettici quello che vuoi. I tuoi vicini. Cosa riconoscono di te? Gesù, che è re, che è risorto, che è in grado di trasformare attraverso la potenza dello Spirito Santo le loro vite. Quando Gesù è il tuo re, lo Spirito Santo regna dentro di te. E se lo Spirito Santo sovrasta e ricopre la storia della tua vita, allora Gesù cambia il destino delle persone intorno a te. Questa è la verità. Questa è la verità. È facile? No. È difficile? Sì. Ce la puoi fare? Tu puoi ogni cosa, perché Cristo che vive in te ti fortifica. Durante questo secondo viaggio missionario, continuando a leggere quello che è il proseguo di Atti 17, ritroviamo Paolo e Silla con i discepoli, prima nella città di Atene, e questo lo vedremo nel prossimo messaggio, uno dei passaggi preferiti che io ho negli Atti degli Apostoli, però non vi anticipo nulla, e poi si ritroveranno nella città di Corinto. E pensate un po', durante il soggiorno nella città di Corinto, l'Apostolo Paolo scriverà la sua prima lettera ai Tessalonicesi, che aveva appena visitato. Mi seguite? E io voglio leggervi alcuni passaggi di questa prima lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi, parlando proprio di quello che era stato il tempo che lui aveva speso quando era stato da loro. Volete con me? La leggiamo? 1 Tessalonicesi, dal capitolo 1, dal verso 2, dice così. Paolo scrive a loro e dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Questa era una campagna evangelistica. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ascoltate ora, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Quando noi annunziamo il Vangelo non soltanto con parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione, il destino delle persone intorno a noi cambia. Perché non siamo noi a cambiarlo, non siamo noi a convincerli, non siamo noi a dirglielo, ma è lo Spirito Santo che agisce e che opera attraverso di noi che lo fa. E continua e dice: infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. E questo mi ha colpito. E sono andato a continuare a leggere, perché ho detto: come si sono comportati tra loro? Vediamo, lo spiega, perché io lo voglio fare pure io. Perché sennò che sto a fare a Tessalonica? A perdere tempo? Me ne vado da un'altra parte. E al capitolo 2, dal verso 3, continua e spiega come si sono comportati. E dice: perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto, sentite ora, far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto eravate diventati cari. Bellissimo. Punto numero 3 del messaggio che Dio vuole dare a noi questa sera è: quando lo Spirito Santo regna, ti rende un leader mansueto. un leader disposto a dare anche la propria vita. E sapete, voglio un po' sfatare questo mito del leader, perché essere leader non è uno status che ti piomba dall'alto addosso attraverso una cerimonia solenne dove vieni nominato cavaliere della tavola rotonda con tanto di medaglietta da appiccicarti sulla pettorina per dirti quanto sei bravo e quanto sei bella e che tutti ti devono ascoltare, che tutti ti devono seguire, che tutti devono fare quello che dici tu perché tu comandi. Non è questo leader. Essere leader è accessibile ad ognuno di noi. E ognuno di noi è già leader. Che tu ne sia cosciente o che tu ne sia incosciente, in ogni relazione che tu hai, tu eserciti un'influenza. In ogni relazione che tu hai con ogni persona, tu sei leader. Tu sei leader nella tua relazione con tua moglie. Tu sei leader nella tua relazione con tuo marito. Tu sei leader nella tua relazione con i tuoi figli. Tu sei leader nella tua relazione con i tuoi genitori. Tu sei leader nella tua relazione con i tuoi cugini, con i tuoi zii, con i tuoi nonni. Perché in un modo o nell'altro, le tue parole, il tuo comportamento e le tue scelte influenzano la storia della vita delle persone che sono intorno a te. E questo ti rende un leader. Sei leader quando affronti le difficoltà al lavoro. Sai perché? Perché il tuo comportamento scrive una storia che gli altri guardano e che gli altri osservano e che in un modo o nell'altro li può influenzare nel bene o nel male. E la cosa che mi piace è che l'Apostolo Paolo non era arrivato a Tessalonica per cercare la gloria dagli uomini. E glielo dice anche. Non era in missione per cercare dei follower che avrebbero messo mi piace al suo stato di Facebook e avrebbero fatto crescere il numero delle visualizzazioni del suo profilo. Non era questo. Non è questo essere leader. Basta ad affannarti a cercare l'approvazione degli altri. Basta ad affannarti a cercare l'approvazione dagli uomini. Sei già il favorito di Dio e sei già la favorita di Dio. Sai perché? Perché quando non ci concentriamo sull'essere il favorito e la favorita di Dio, perdiamo il nostro tempo. E tutto quello che guadagniamo è quel follower che ci ha seguito in quel momento, ma che poi il giorno dopo ha chiamato i magistrati, preso da invidia, e ci ha affidato alle mani del tribunale per essere sbattuti in prigione. E sapete cosa accade quando viviamo una vita così? Che la nostra vita è appesa al filo di quello che gli altri dicono di te, di quello che gli altri pensano di te e di quello che gli altri credono di te. E oggi va bene, ma domani va male. Credi quello che Dio crede di te. Di' di te stesso quello che Dio dice di te, perché Gesù mio Re ti ha approvato e ti ha stimato tale da poterti affidare il Vangelo, affidandoti e abilitandoti, permettendo alla storia della tua vita di incastrarsi in un piano ancora più grande dove tu puoi essere parte, dove tu puoi trasformare la tua vita e permettere alla vita delle persone di essere trasformata e cambiata. Paolo avrebbe potuto far valere la sua autorità. È vero, l'ha detto. Eppure ha scelto di far valere la sua mansuetudine. Che leader sei tu? A casa tua, che leader sei tu? Sul tuo posto di lavoro, che leader sei? Sei un leader che fa valere la sua autorità o sei un leader che fa valere la sua mansuetudine? Nel tuo gruppo familiare di cui tu sei parte, che leader sei? Nel servire la Chiesa, nel parlare con i tuoi vicini, che cosa fai valere? La tua autorità o la tua mansuetudine? Nell'andare a fare la spesa, che cosa fai valere? la tua mansuetudine o la tua autorità? Quando Gesù è il tuo re, lo Spirito Santo regna dentro di te. E se lo Spirito Santo governa e guida, allora Gesù ti rende un leader, da Galati 5:22. Che cosa dice Galati 5:22? Che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quando lo Spirito Santo, lasciamolo sullo schermo per favore, quando lo Spirito Santo governa e guida la tua vita, lui ti rende un leader amorevole verso ognuno e non solo verso chi ti piace. Lui ti rende un leader gioioso anche nelle tue difficoltà. Lui ti rende un leader che porta pace e non conflitto nelle relazioni che ha. Lui ti porta ad essere un leader che è paziente e che sa dare un'altra possibilità. Lui ti porta ad essere un leader che è benevolo, che pensa al bene delle persone e non pensa che tutti pensano male di lui. Ti porta ad essere un leader che è ripieno di bontà, che è disposto a sacrificarsi e a far passare la persona avanti alla cassa. Perché tanto non fa niente. Sono 3 minuti in più. Ti porta un leader che è fedele, che non si tira indietro. Ti porta ad essere un leader che è mansueto, che sa prendersi cura, non con autorità. Ti porta ad essere un leader che è controllato dallo Spirito Santo in ogni suo sentimento e in ogni sua emozione, perché li sa affidare a Lui. Sapete, tante volte cerchiamo la manifestazione dello Spirito Santo come qualcosa di esterno da noi, che deve arrivare e ci deve stravolgere, ci deve far alzare 3 metri sopra il cielo, e poi dobbiamo vedere il cielo aperto e la gloria del Padre, le nuvole fucsia gialle e tutti i colori dell'arcobaleno. È vero? E poi non accade e diciamo, a me lo Spirito Santo non mi ha dato niente. Piuttosto, ricerca la manifestazione dello Spirito Santo dandogli spazio dentro di te. Dai lo spazio che merita allo Spirito Santo dentro di te. Dagli lo spazio che merita nella storia della tua vita per crescere in amore, per crescere in gioia, per crescere in pace, per crescere in pazienza, per crescere in benevolenza, per perdonare. Per perdonare chi sai che devi perdonare. Per essere mansueto, dai spazio allo Spirito Santo. Sai perché? Perché la potenza dello Spirito Santo si dimostra attraverso il frutto che la tua storia sta scrivendo. La potenza dello Spirito Santo si dimostra attraverso il frutto che la tua storia sta scrivendo. Questa è la potenza più grande, perché non c'è potenza più grande che perdonare chi ti ha ferito. E tu lo sai, per chi hai perdonato, lo sai che cosa significa. E lo sai che tu non lo potevi fare, ma Cristo che è in te ti fortifica per poterlo fare. Alziamoci in piedi. Stiamo per vivere la cena del Signore questa sera. E io voglio incoraggiarti in questo tempo che c'è davanti a cercare in te quella rivelazione di Gesù che è re e regna sulla tua vita, perché lui si vuole prendere cura di te. E per assurdo, se trasforma il tuo percorso, lui si sta prendendo cura di te. E per assurdo, anche se non hai capito dove ti trovi e non ha senso per te tutto quello che lui ti sta chiedendo di fare, lui vuole cambiare il destino delle persone intorno a te. Prendiamoci questo tempo per arrenderci, partecipare, mangiare di quel pane e di quel vino e arrenderci alla sua presenza e dire: Signore, io voglio riallinearmi. Signore, io ho bisogno che tu sia il mio re questa sera. Ce lo siamo detti tante volte, ma questa sera mi voglio mettere in gioco davanti a te. Voglio compromettermi. Voglio compromettermi il percorso che ho pensato di vivere davanti a me. perché so che tu sei potente. E se non hai ancora preso una scelta per Gesù e non ti sei ancora battezzato da adulto, vivi questo momento per chiedere a Gesù rivelazione e dire: Signore, io mi devo battezzare davanti a tutti. Non ce la posso fare. Chiedi rivelazione di Gesù Re. Prega. Io sarò qui avanti, puoi anche venire avanti e possiamo pregare insieme. Non c'è cosa migliore che decidere di arrendere la tua vita a Cristo Gesù. Ma per tutti noi che abbiamo fatto una scelta e che stiamo camminando in quel percorso, prendi una decisione questa sera. È facile? No. È difficile? Sì. Ce la puoi fare? Tu ce l'hai già fatta. Di a te stesso, mentre mangi quel pane, bevi quel vino: io ce l'ho già fatta, perché Cristo è morto ed è risorto per me. E quello che io sto facendo è un ricordo del fatto che Lui ha vinto e che Lui ritornerà e che Lui è il mio Re e che Lui regna. E se Lui regna, io sono al sicuro. Signore Gesù, vogliamo presentare noi stessi questa sera davanti a te. Vogliamo presentarti questo pane e questo vino. Grazie per il tuo sacrificio per noi. Grazie perché è vero, è vivo ed è capace di trasformare il percorso della storia della nostra vita. Questa sera ci vogliamo arrendere a te. Vogliamo metterci in gioco. Vogliamo metterci in discussione. Vogliamo compromettere. Vogliamo che tu possa provare il nostro cuore per portarci a vivere quel viaggio missionario che tu hai preparato attraverso della nostra vita. Ti amiamo, Gesù. Amen. Liberamente possiamo venire avanti e partecipare alla cena.